Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. In ogni caso, sull'inchiesta do un giudizio positivo io. Do un giudizio positivo perché comunque la corruzione aveva raggiunto livelli tali che non potevano essere tollerati, ci avrebbero portato presto in Argentina. Da quella però inchiesta non abbiamo tratto tutti gli insegnamenti che era necessario trarre di innovazione del paese, che sarebbe stato necessario. Sapete chi è questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori? È Primo Greganti, ex funzionario del PC-PDS, condannato a 3 anni nell'inchiesta di Mani Pulite e che qui in questa intervista avete sentito in questo straccio dal Corriere di qualche tempo fa. Dice che quell'inchiesta di Mani Pulite era giusta, ma non avevamo imparato niente. Lo dice lui, probabilmente neanche lui ha imparato molto, evidentemente, dato che è stato arrestato oggi, benché valga la presunzione di innocenza sino al terzo grado, nella nuova, quella che viene già definita nuova Tangentopoli relativa all'Expo 2015 che Milano dovrebbe ospitare per l'appunto l'anno prossimo. Avete sentito cosa ha detto? Approfondiremo molto questo argomento stasera, perché è stata una giornata particolare davvero, con un tintinnio di manette a destra e a sinistra che ci fa di nuovo apparire davanti agli occhi un paese che speravamo, ma non lo so quanto sperassimo effettivamente, di averlo alle spalle. Che paese è questo oggi, l'Italia, secondo voi? È uno dei commenti che potete fare o sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi SMS al 349-238-6666. Tutto questo mentre io in un primo tempo, come sempre, vi riassumo un po' la giornata, poi con i vari ospiti approfondiamo gli altri temi. Expo ritorna l'ombra di Tangentopoli, 7 arresti per un giro di appalti e corruzione, in manette anche Greganti, Frigerio e Paris. L'arresto dell'ex ministro Scajola aiutò la latitanza dell'ex deputato di Forza Italia Matacena, condannato per mafia. Costo del denaro, la BCE ferma i tassi allo 0,25%, spread ai minimi del 2011. Il caso di Piacenza, la perizia scagiona, il papà del bimbo morto in auto ha avuto un'amnesia dissociativa. Michelle Obama in campo per le liceali nigeriane rapite, dice ridateci le nostre ragazze, boom del suo hashtag della First Lady. Anche il presidente Obama parla e dice gli Stati Uniti fanno tutto ciò che possono per liberarle. Iniziamo quindi dalla bufera giudiziaria, come dicevo, si è abbattuta oggi sull'Italia in un solo giorno. Nella giornata di oggi si sono concluse 2 indagini diverse, comunque tutte e 2 importanti. Quella sulla protezione che l'ex ministro Scajola avrebbe dato a un parlamentare di Forza Italia, Amedeo Matacena, condannato per mafia e per questo l'ex ministro appunto è stato arrestato oggi, e quella sugli appalti per Expo che sembra riportare Milano agli anni di Tangentopoli, con 7 arresti, tra cui il direttore generale della pianificazione e degli acquisti di Expo 2015. Angelo Paris, e poi volti noti come Primo Greganti, ex funzionario del PC-PDS, e Gian Stefano Frigerio, ex segretario regionale della Democrazia Cristiana, poi eletto in Forza Italia, tutte e 2 già coinvolti in Tangentopoli. Poi, come dicevo, ne parleremo ampiamente, ma accenniamo già ora del clamoroso arresto, come vi dicevo, dell'ex ministro dello sviluppo Claudio Scajola. In prima fila a garantire la latitanza di Amedeo Matacena, questa l'accusa che ha portato in carcere l'ex ministro Claudio Scajola. Matacena, suo amico ed ex parlamentare PDL condannato a 5 anni per concorso esterno in un'associazione mafiosa, si è allontanato dall'Italia per sfuggire alla sentenza diventata definitiva la scorsa estate. Attorno a lui non solo l'ex ministro, ma una rete di contatti internazionali e politici di altissimo livello, sottolinea il giudice che ha firmato gli arresti, 8 in tutto, coinvolta anche la segretaria di Scajola, la moglie e la madre di Matacena. Un'associazione per delinquere segreta collegata alla 'Ndrangheta, scrive ancora il GIP, che a proposito di Scajola aggiunge, era completamente asservito alle necessità della moglie di Matacena, anche lei ricercata ma irrintracciabile. I 2 vengono intercettati mentre discutono della meta che il latitante potrebbe raggiungere per stare più tranquillo, e Scajola a suggerire alla signora Matacena di farlo spostare a Beirut in Libano, dove non esiste il reato di associazione mafiosa e da dove il rimpatrio è estremamente complicato. Ma non solo questo, la rete di amici dell'imprenditore si è adoperata per schermare le sue società, a nasconderle, per sottrarle ai sequestri. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Già stanno arrivando molti dei vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e su che paese è questo oggi tra queste inchieste, questi arresti. Vi dicevo, poi vediamo se riusciamo a raggiungere l'avvocata anche di Scajola tra poco. 2 inchieste quindi destinate ad avere molte conseguenze. Mi dispiace per lui, ma non è per questo che non lo abbiamo candidato, ha detto oggi Berlusconi a proposito di Scajola. Renzi dice invece la politica non entri nelle indagini. Gli arresti eccellenti sommergono il mondo politico già esacerbato dalla sfida per le europee. Matteo Renzi interviene sull'Expo, la politica non metta becco sul lavoro dei magistrati dei quali il Premier ha massima fiducia e chiede massima severità se i reati sono stati commessi. L'arresto dell'ex ministro di Forza Italia Claudio Scajola provoca invece reazioni diverse. Silvio Berlusconi interviene a Radio Capital. Non so per quali motivi possa averlo arrestato e me ne spiace molto, anzi ne sono addolorato. Non è stato candidato perché a seguito di un sondaggio abbiamo rilevato che la sua candidatura ci avrebbe portato a una diminuzione del voto globale dei nostri sostenitori. Il PD è per il rispetto della magistratura, Pierluigi Bersani. Il distacco micidiale che c'è fra cittadini, istituzioni e politica può solo accentuarsi davanti a fatti e notizie di questo genere. Più duro il commento di Maurizio Buccarella del Movimento 5 Stelle. Il rivelarsi di un partito ormai che è fatto di latitanti in fuga, parlo di quello che era Forza Italia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quindi non commenta le inchieste Renzi, ma da Genova fa un nuovo annuncio. Dall'anno prossimo non ci sarà più il modello 730 per la dichiarazione dei redditi. L'annuncio è di quelli che fanno notizia, l'addio dal prossimo anno del modello 740. Lo aboliremo, spiega il presidente del Consiglio Renzi, che poi aggiunge la dichiarazione dei redditi così come è stata finora e agli sgoccioli. Un antipasto, quello del Premier, di quella che sarà la riforma del fisco che punterà su un forte ammodernamento telematico e tra l'altro sulla revisione delle imposte indirette, sulla semplificazione degli adempimenti a partire da quelli delle piccole e medie imprese. In particolare per la dichiarazione dei redditi, l'obiettivo di Palazzo Chigi è quello di inviarla compilata in formato digitale a circa 32 milioni di contribuenti, rottamando così il modello 730. Tutte misure queste che dovrebbero contribuire a rilanciare l'economia secondo le intenzioni del governo. Da Renzi quindi una riflessione più generale con l'invito a superare le paure e i rancori che frenano il paese. Quest'Italia qui non è l'Italia del Presidente del Consiglio, non è l'Italia di importanti manager di aziende. Quest'Italia è l'Italia che tutti i giorni si alza la mattina presto, va a lavorare e fa bene quello che deve fare. Sono convinto che bisogna rischiare il tutto per tutto e cercare di fare una vera rivoluzione, spiega quindi Renzi in un'intervista al settimanale americano Time. È il momento giusto, ci sono le condizioni per farlo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E occupiamoci adesso del costo del denaro. La Banca Centrale Europea mantiene il tasso principale invariato e l'annuncio di misure straordinarie ravviva i mercati. Tassi fermi ma pronti a misure non convenzionali per contrastare l'inflazione troppo bassa. Il presidente della BCE Mario Draghi detta la linea indicando in giugno il mese in cui Francoforte potrebbe passare all'azione con mosse straordinarie. Impegno unanime in questo senso ha tenuto a precisare Draghi compattando dietro di sé lo spesso frastagliato board dei banchieri nazionali. We decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Per ora il costo del denaro nell'eurozona resta dunque fermo allo 0,25%, la ripresa procede come da aspettative e l'inflazione, anche se resterà bassa a lungo prima di un graduale miglioramento, è fermamente ancorata sul medio e lungo periodo, rassicura Draghi, che invita i paesi della zona euro a non mettere a rischio i progressi fin qui ottenuti con le riforme. Servono azioni decisive nei paesi con squilibri eccessivi, ripete il presidente della BCE. L'Italia è ovviamente tra questi. Un accenno anche all'euroforte, motivo di crescente tensione tra Francia e Germania. Il cambio elevato associato alla bassa inflazione è motivo di grande preoccupazione, dice, e quindi va affrontato, avvisa Draghi, il quale invia un messaggio chiaro ai governi che provano a minare l'indipendenza della BCE. Siamo senz'altro grati per i molti consigli di politici e istituzioni su quasi tutto, ma sapete, siamo indipendenti. Dovrebbero sapere che minacciare l'indipendenza potrebbe minacciare la nostra credibilità. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto lo spread, cioè il differenziale di rendimento tra i BTP italiani e i Bund tedeschi, chiude sui minimi da maggio 2011 a 147,3 punti base, in scia alle parole del presidente della Banca Centrale Europea, appunto Mario Draghi. Passiamo alla vicenda degli ultra. Per motivi di ordine pubblico la partita Roma-Juventus è stata anticipata alle 17.45 di domenica. Intanto proseguono le indagini sugli scontri di sabato scorso. Ammirato ad altezza uomo e a fatto fuoco, Daniele De Santis è l'unico autore della sparatoria sulla base di una testimonianza di un tifoso del Napoli. Ne sono convinti gli inquirenti che indagano sugli scontri di sabato. Per Gastone, De Santis, accusato di tentato omicidio, è stato dunque convalidato l'arresto in carcere in quanto soggetto per pericoloso. Nell'ordinanza si parla di natura incontenibile e violenta, di comprovata incapacità a misurare la gravità delle proprie azioni. A partecipare invece al lancio di petardi contro il bus dei tifosi del Napoli c'erano, insieme all'ultraromanista, altre 4 persone con il casco in testa, ancora non individuate. Il gruppo di aggressori si è infatti dileguato al primo accenno di reazione dei napoletani in una direzione diversa da quella di De Santis, e lui alla fine sarebbe stato l'unico a sparare. Quanto invece alla presunta trattativa prima del fischio d'inizio, il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone precisa che non esiste il reato di trattativa e quindi non può esservi un'indagine giudiziaria in tal senso. Intanto dal Quirinale arriva un monito: intransigenza assoluta verso chi si presenta con le spranghe, chi attacca senza scrupolo, chi devasta, dice Napolitano. E in linea dura annuncia il capo della polizia Alessandro Pansa, sollecitando nuove e più incisive forme di contrasto perché situazioni come quelle di sabato non dovranno più ripetersi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla cronaca. Aveva provocato la morte del figlio dimenticandolo in auto l'anno scorso a Piacenza, ma la perizia psichiatrica oggi scagiona l'uomo. Non è un mostro Andrea Albanese, il manager quarantenne che il 4 giugno dell'anno scorso dimenticò per 9 ore il figlioletto Luca, 2 anni, nell'auto lasciata parcheggiata sotto il sole davanti al luogo di lavoro. Lo conferma la perizia psichiatrica, secondo la quale l'uomo, al momento del fatto, era completamente incapace di intendere di volere per il verificarsi di una transitoria amnesia dissociativa. E quanto scrive Corrado Cappa, psichiatra nominato dal giudice di Piacenza, Giuseppe Bersani. Il padre era stato indagato per omicidio colposo e sedato in ospedale subito dopo la scoperta della morte del figlio. Ricoverata per lo shock anche la madre del piccolo, nei giorni successivi l'uomo scrisse un messaggio straziante su Facebook in cui chiedeva alla compagna di trovare la forza di perdonarlo. E così è stato. Insieme poi l'idea di creare il gruppo Facebook Mai più morti come Luca. Obiettivo: una legge che renda obbligatori i sistemi antiabbandono sulle auto. Lo slogan: un allarme può salvare una vita. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Teniamo alta l'attenzione anche sulle ragazze nigeriane rapite e con la minaccia di venderle per $12 come schiave in Nigeria. Ridateci le nostre ragazze. Anche Michelle Obama mostra la sua solidarietà alle giovani nigeriane sequestrate appunto dal gruppo integralista Boko Haram. La First Lady si è unita all'appello per la liberazione delle oltre 200 studentesse rapite in Nigeria il 14 aprile. Lo ha fatto su Twitter con una fotografia di sé che mostra il cartello Bring Back Our Girls, riportate indietro le nostre ragazze, l'hashtag di solidarietà alle vittime nato dopo il sequestro. Rivendicato dal gruppo jihadista Boko Haram, non è un caso isolato. Altre 11 adolescenti della stessa regione sono sparite nella notte tra il 3 e il 4 maggio e il giorno seguente 300 persone sono morte in un attacco. Dopo aver per mesi sostenuto che il rapimento fosse una montatura, il presidente nigeriano Goodluck Jonathan ha annunciato di aver mobilitato unità speciali dell'esercito per le ricerche e accettato l'aiuto militare statunitense. $200,000, il compenso previsto dal governo per il ritrovamento delle ragazze. Erika Magnello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo in chiusura di questa prima parte. Per venerdì, anzi 9 maggio, sarà una targa a suggellare definitivamente l'iscrizione di 12 ville e 2 giardini medicei toscani nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, un successo che onora tutta la cultura italiana. È ufficiale. Dopo l'approvazione dello scorso anno, ora sarà una targa a suggellare definitivamente l'iscrizione di 12 ville e 2 giardini medicei toscani nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'Italia conferma così il suo primato di siti presenti nella lista. Da 47 passiamo a 49 e siamo in cima davanti alla Cina, che di siti nella lista UNESCO ne ha 45, e alla Spagna, che ne ha 44. Un successo importante anzitutto perché l'UNESCO è sempre più severa nei suoi criteri di selezione dei siti, ma soprattutto perché onora la nostra cultura, il nostro paese, in particolare la Toscana, per la quale questo significa incrementare ulteriormente l'impegno nella salvaguardia di beni che sono patrimonio di tutta l'umanità, presente e futura. Francesca Barracciu, sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. I nostri avi ci hanno tramandato patrimoni incredibili. Noi abbiamo il dovere oggi di valorizzarli, di tutelarli certamente, ma soprattutto di mettere a frutto le loro potenzialità. Certo, lo Stato da solo non ce la fa, tantomeno gli enti locali, bisogna quindi inaugurare un nuovo mecenatismo, sulla scia di quel grande esempio che ci ha lasciato la stessa famiglia Medici. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, questa prima parte si chiude, vorrei leggere almeno qualcuno dei vostri messaggi che stanno arrivando, per esempio gli SMS, dice Beatrice, per me siamo in un paese deprimente a proposito delle cose, degli arresti, delle inchieste che ci sono in Italia. Mimmo da Trapani, è sempre lo stesso paese, tutti tentano la truffa, se va bene. bene benissimo, se no si va in carcere nemmeno quello, il gioco vale la candela. E Mr. Greganti dice: il lupo perde il pelo ma non il vizio. E non soltanto lui, a quanto pare. Floriano scrive: ma il paese del bunga bunga, credo che quando viaggiamo all'estero tutti avranno fatto questo commento. Alessandro scrive: tutta gente votata e rivotata, effettivamente bisogna dare ragione. Vittorio: il paese è meglio di quello che sembra, o quantomeno non è solo quello che ci propinano. Piuttosto ottimista e speranzoso Vittorio. Domenico dice: parliamo della prima, seconda, terza repubblica, di evoluzioni meglio di queste, ma in realtà siamo rimasti a 22 anni fa, non è cambiato nulla. Adesso cambia soltanto gli aggiornamenti per chi viaggia, poi ci risentiamo tra pochissimo come sempre e cominciamo a approfondire qualche tema con gli ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vedete, pochi istanti, di nuovo insieme e tra poco cominceremo a parlare di una delle due inchieste, quella sull'Expo, tra pochi, una manciata di secondi. Prima vi ricordo quali sono state le notizie della giornata, molti dicono io voglio risentirle, qualcuno le vuole risentire, insomma ogni pausa così ve le ricordo. Expo ritorna all'ombra di Tangentopoli, 7 arresti per un giro di appalti e corruzione, in manette anche Greganti, Frigerio e Paris. L'arresto dell'ex ministro Scajola aiutò la latitanza dell'ex deputato di Forza Italia, Matacena, condannato per mafia. Costo del denaro, la BCE ferma i tassi allo 0,25% e lo spread ai minimi dal 2011. Il caso di Piacenza, l'avete sentito, la perizia scagiona il papà del bimbo morto in auto perché aveva avuto un'amnesia dissociativa. E poi Michelle Obama che scende in campo per le liceali nigeriane rapite. Quindi avete sentito una delle due notizie grosse del giorno, quella che viene già definita, insomma tutto il giorno è stata definita la nuova Tangentopoli per l'Expo. Ricordate Tangentopoli naturalmente 20 anni fa, negli anni 90, caratterizzata da una serie di indagini giudiziarie condotte a livello nazionale nei confronti di esponenti della politica, dell'economia, delle istituzioni italiane, insomma non sto a ricordarlo. Ebbene, adesso a Milano con l'Expo ci sono stati altri nuovi 7 arresti, perché già ce ne erano state nelle settimane scorse, per corruzione e turbativa da. Ma ci facciamo raccontare meglio la cronaca dalla nostra inviata Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, ciao a te e ai nostri ascoltatori. Una storia complessa, ampia, ma insomma che nulla di nuovo probabilmente rispetto al nostro recente passato, no Raffaella? Possiamo dire che ci sono appalti nuovi, a cominciare da quello sull'Expo innanzitutto, schemi forse nuovi, ma diciamo le regole del gioco sono grosso modo le stesse e a quanto pare anche pure certi nomi, e questa è stata diciamo la prima grande suggestione di questa inchiesta, perché alcuni dei protagonisti di questa vicenda sono stati protagonisti dei tempi di Tangentopoli, a cominciare appunto da Primo Greganti, il compagno G, che all'epoca patteggiò 3 condanne per corruzione, fece anche 5 mesi di custodia cautelare, e che si disse all'epoca che col suo silenzio aveva in qualche modo salvato la sinistra dalla distruzione della Prima Repubblica, quando fu trovato con quella valigetta con 1 miliardo di lire dentro. Ma con nomi della Tangentopoli dell'epoca, anche lo stesso Frigerio, che era un ex parlamentare DC, e poi ancora ci sono altri nomi che riemergono dall'archivio della cronaca giudiziaria degli anni passati, come Cesare Previti, che però non è indagato in questa inchiesta, l'ex avvocato e l'ex ministro di Berlusconi, a cui parte di questo gruppo si rivolge anche per avere quelle sponsorizzazioni politiche per delle nomine pubbliche importanti, che servivano loro come merce di scambio per potersi spianare la strada invece in appalti fondamentali. E infatti un po' la sintesi di tutta questa grossa inchiesta è un'intercettazione, secondo me, dello stesso Paris, che è il direttore generale dei contratti di Expo, quando dice: se voi mi aiutate con la carriera io vi do tutti gli appalti che volete. E questo era quello che stava avvenendo, cioè loro, Primo Greganti, Luigi Grillo, parlamentare di Forza Italia, Frigerio, stavano cercando di aiutarlo attraverso Previti, attraverso Berlusconi, per avere incarichi nelle infrastrutture lombarde, che rese un incarico reso ancora più importante dopo che con i precedenti arresti di fine marzo che ricordavi, Rognoni era stato appunto fatto fuori e anche lui è tra le persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare di oggi. Mentre invece l'altra area politica, quella di sinistra, aspettava a Primo Greganti e anche in questo caso c'è una significativa intercettazione che la sintetizza, perché è lo stesso Frigerio che dice: Primo ci copre la sinistra. Va anche detto in questa complessa inchiesta, che non è ancora finita, che è partita da tutt'altra vicenda, da una vicenda sulle infiltrazioni dell'Ndrangheta nella sanità lombarda, parentesi, ci sono anche, se l'Expo è il boccone più ghiotto, gli appalti a cui puntavano erano anche quelli sulla sanità, quindi la città della salute di Sesto San Giovanni, due sempre ospedali di Melegnano e San Carlo, e poi il nucleare della Sogin. Ma oltre appunto a questo, c'è anche da dire che i magistrati avevano chiesto ben più arresti dei 7 che hanno ottenuti, erano 19, il GIP ne ha autorizzati 7, anche se ha convalidato tutto quanto l'impianto accusatorio, e sembra un po' di capire da queste 612 pagine dell'ordinanza che ci sono molti filoni che in qualche modo necessitano di ulteriori approfondimenti, e questo è quello che in qualche modo apre ancor di più l'interrogativo sulla effettiva entità di un ritorno in queste dimensioni di Tangentopoli. Ma se ne riparla oggi, ma i magistrati lo dicono da sempre, che sono semplicemente cambiati schemi, personaggi, modalità, ma per certi versi la corruzione è anche più forte e più radicata dell'epoca. È proprio nel nostro DNA. Grazie Raffaella Calandra di questa ricostruzione così articolata, complessa e esauriente. E saluto Peter Gomez, grazie di essere qui Peter in collegamento. Buongiorno. Buonasera a voi. Direttore del Fatto Quotidiano Online. Peter, quindi un po' tutti hanno titolato, ma in realtà perché l'hanno detto i magistrati, l'Expo prevede quindi una cupola di questi, come vogliamo chiamare, faccendieri, affaristi, imprenditori, eccetera, con i politici. Quindi si può dire dal paese dei campanelli o dei campanili siamo diventati il paese delle cupole, forse lo siamo sempre stati. Insomma, praticamente non siamo dei nostalgici noi, Peter, che non riusciamo a staccarci. Non abbiamo cambiato la classe dirigente negli ultimi 25 anni. La corruzione e i reati contro la pubblica amministrazione sono dei reati seriali. Molti di questi personaggi, a partire da Gian Stefano Frigerio, per proseguire con il compagno G. Greganti, sono stati arrestati, condannati e sono stati riciclati. Gian Stefano Frigerio, dopo 7 anni di condanna, è stato candidato ed eletto da Forza Italia nel 2006. Gli hanno cambiato il nome e l'hanno chiamato Carlo nelle liste perché la gente non si ricordasse. Poi sono arrivati i carabinieri, l'hanno prelevato e l'hanno portato via dal Parlamento. Il compagno G era qualche anno fa all'ultima festa nazionale del PD a Torino, dove vendeva coccarde, ed era presente in sala quando Chiamparino si candida a governatore del Piemonte. Non è gente che è uscita dal giro, è gente che era nel giro e c'è rimasta. La differenza è che allora noi abbiamo capito un pezzo del giro, non abbiamo capito quello che era il giro alto, e anche questa volta lo riusciamo solo a intuire. Per promuovere Tizio Caio ci vuole l'intervento politico, per i soldi che giravano, perché qua giravano anche dei soldi, finivano solo i faccendieri o finivano, come si diceva, si dice in qualche intercettazione, anche ai partiti politici. È inutile girarci intorno, è un sistema malato che anche a causa della gerontocrazia italiana e della capacità di eternare e di autoregenerarsi ha cambiato solo qualche modalità, ma è rimasto quello di 20 anni fa. Quindi 20 anni fa con Tangentopoli e con l'impul di Mani Pulite, di cui faceva, naturalmente lo sanno tutti, parte anche Antonio Di Pietro, che era oggi Effetto Giorno. Sentiamo un passaggio. La cosa più grave qual è? Che oggi a sentire quei nomi ne si è accapponata la pelle. E qui non è tanto il Greganti di turno, che pure mi fa sorridere amaramente, questo ne aveva approfittato allora, ne sta riprofittando adesso di un sistema marcio, ma quel che più fa accapponare la pelle è sentire personalità come Grillo, l'onorevole Grillo, Stefano Frigeria, era il due macchina di quel sistema lombardo che avevamo scoperto, era il punto di riferimento di quel sistema marcio per quanto riguardava la parte democristiana. Ritrovarcelo ancora adesso dentro, a me mi si accappò la pelle. Ma chi ce l'aveva di fronte? Non sapeva chi ce l'aveva di fronte. Siccome lo sapeva, lo lasci dire. Evidentemente era complice allora e complice adesso, non gli poteva dire di no. Ecco perché io mi appello alle istituzioni. Lei dice che le istituzioni locali, quantomeno quelle locali, sono complici, dice. Beh, non ho capito perché quelle nazionali no. Quindi Peter Gomez, praticamente Di Pietro risponde un po', non era la tua una domanda, un'affermazione, quando hai detto il problema è che non abbiamo cambiato classe dirigente, quindi essendo conniventi allora e conniventi adesso, questo è un po' il succo. Sì, il succo è questo, con una differenza: in questi 20 anni abbiamo fatto finta di dimenticarci che essere contro queste pratiche non ha nulla a che fare con l'etica, con la morale, ma semplicemente con la convenienza. Le opere pubbliche, costruire una strada in Italia costa mediamente il 30% più che in Germania, e questo è il prezzo di queste pratiche, non solo della democrazia. Per le tangenti, insomma, le mazzette. Su questo tipo di appalti probabilmente si va anche al 100% dei ricarichi sul valore vero degli appalti. Dopodiché ci si chiede perché in questo paese non si facciano le opere, o quando si fanno le opere non funzionano, o costano troppo tardi, o perché abbiamo i buchi di bilancio. I cittadini dovrebbero ricordare che questi signori usano i soldi delle nostre tasse. Se passano per questa logica, potranno forse anche tentare al momento del voto, ma per quello che di cercare di sceglierne qualcun altro. Senti, adesso a proposito dei commenti che sono stati fatti oggi, c'è Renzi che ha detto la politica non metta becco. Secondo te è giusto, nel senso, lasciamo andare avanti la magistratura e vediamo come si evolvono queste inchieste, queste indagini, o la politica dovrebbe farsi sentire, dire qualcosa e che cosa? Beh, io mi aspetto che Renzi dica quello che non ha detto fino adesso. Renzi ci ha parlato di 80 euro, ci ha parlato della burocrazia, ci ha parlato di un sacco di cose. Renzi non ci ha detto due o tre cose fondamentali. All'estero, a partire dalla Germania, ci vedono come un paese di mafiosi corrotti. Perché? Perché non abbiamo serie norme di anticorruzione, non abbiamo norme sull'autoriciclaggio, perché nell'ultima lettera che ci è arrivata dall'Unione Europea ci hanno detto: per favore, riformate la prescrizione, fa bruciare tutti questi tipi di processi contro i colletti bianchi. Tutti provvedimenti per i quali ci sarebbe necessità d'urgenza e si potrebbe procedere per decreto. Invece abbiamo visto che nell'ultimo governo, per motivi assolutamente misteriosi, quando si è trattato di scegliere i sottosegretari, ne sono stati scelti 4 che sono già sotto inchiesta o sotto processo. Allora uno si chiede: ma è possibile che anche questo governo non avesse tra i tanti sottosegretari e i tanti parlamentari che sono incensurati, non indagati, non raggiunti da nessuna inchiesta, qualcun altro da scegliere? Perché è stato scelto della gente sicuramente innocente fino a prova contraria, ma che un domani potrebbe essere condannata? Qual è l'immagine che tentiamo di dare all'estero? Sono domande normali e non polemiche, che sarebbe il caso che alle quali anche Renzi dovrebbe forse rispondere. Invece il presidente della regione Lombardia, estremamente coinvolta, appunto, visto che l'Expo si terrà a Milano, coinvolta in questo senso, nel senso che è una cosa che le appartiene, Maroni ha detto che bisogna procedere rapidamente nel cronoprogramma previsto. In realtà però anche il procuratore di Milano Brutti Liberati ha detto: abbiamo reciso subito i rami malati per consentire Expo di ripartire al più presto, che sappiamo che si dice da tempo è una grandissima occasione per l'Italia, l'esposizione mondiale dell'anno prossimo a Milano, no? Certo che è una grande esposizione dell'Italia, però i nostri radioascoltatori sanno anche che rispetto al progetto originale tantissimo è stato ridotto, perché i signori dell'Expo sono arrivati semplicemente in un grandissimo ritardo. L'Expo è stato stravolto, speriamo tutti, rispetto al progetto originario, speriamo tutti che vada bene, che arrivino un sacco di turisti, che la regione Lombardia ne abbia un beneficio, ma da questo punto di vista la classe politica, quando non era corrotta, ha dimostrato un'inefficienza totale. Costruiranno se basta andare sulle aree dell'Expo e rendersi conto qual è oggi lo stato dei lavori e il timore che hanno di arrivare lunghi rispetto ai lavori che sono stati semplificati. Ti leggo solo questo messaggio dei tanti che sono arrivati e poi ci salutiamo. Peter Gomez, c'è Maurizio che dice: la solita italietta delle persone giuste al posto giusto, dice da vomito, insomma. Un minimo secondo te di rinnovo di classe dirigente c'è stata, anche se tu dici anche per i sottosegretari potevano essere scelte persone diverse, ma un minimo di rinnovo di classe dirigente c'è stata, anche se l'inchiesta di oggi dice, insomma, C'è poco da fare, voglio dire. Se andiamo a vedere nell'inchiesta di oggi, al di là di quello che dovrà essere dimostrato giudiziariamente, però diciamo molto di quello che abbiamo letto ha già un estremo significato politico. Qua c'erano le cooperative che per ottenere appalti avevano come referente Primo Di Greganti, c'erano cooperative invece o società di altro colore che avevano degli altri referenti, e tutti avevano dei referenti politici o millantavano dei referenti politici. visto su dei contatti con persone che stavano all'interno del governo. Insomma, per fare in fretta, ieri l'altro il ministro Alfano ci ha detto che aveva semplificato le norme antifalsa sull'Expo in modo di mettere il turbo. Speriamo che Dio ce la mandi buona. Che Dio ce la mandi buona, allora. Grazie Peter Gomez. Ciao, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao Peter. Ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e poi passiamo all'altra inchiesta di oggi. C'è sempre la pagina Facebook per voi di Effetto Notte, i messaggi al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Prima abbiamo parlato dell'inchiesta sull'Expo con nuovi arresti, adesso parleremo invece dell'arresto dell'ex ministro Scajola. Vedo ancora tantissimi vostri messaggi al 349-238-6666, ma anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Alain scrive: bene, siamo riusciti a renderci ridicoli nel mondo anche con l'Expo e poi non ci lamentiamo se le aziende straniere non vengono a investire in Italia. Anche Ricchi 65 dice: l'Italia è sempre la stessa, e fa il caso, per esempio, dice, per un intervento chirurgico quasi sempre per il posto letto in ospedale bisogna andare prima nello studio del dottore. E poi Max: roba da matti, con queste tangenti non cambia mai nulla, è chiaramente il segno dell'impunità, bella figura davanti al mondo. Vi ricordo, prima di passare al prossimo tema, i titoli di oggi. Quindi bufera sulle spose, terresti per appalti e tangenti, PM dicono in Lombardia c'è una cupola, manette anche a Primo Greganti, arrestato Scajola, favorì la latitanza di Amedeo Matacena, e PM parla di un'associazione segreta con l'Andrangheta. Ucraina, i separatisti confermano il referendum per domenica, vertice intanto di Unione Europea che prepara sanzioni per colpire le società russe. All'Italia, Etihad, la compagnia araba Etihad convince il governo, ora chiarezza dei soci, questa sarà una settimana decisiva. E poi Michelle Obama, che è in campo per le licenze ali nigeriane rapite, lancia l'hashtag ridateci le nostre ragazze. E saluto quindi la nostra Monica Ceravolo. Ciao Monica. Ciao, buonasera a tutti. E c'è Elisabetta, la dottoressa Elisabetta Busuito, l'avvocata di Scajola. Buonasera a lei, avvocata. Buonasera. Buonasera. Adesso io faccio ricostruire un po' la vicenda da Monica Ceravolo, un po' la lancio io e poi dopo facciamo parlare, visto che può stare poco, l'avvocata Busuito. Arrestato, appunto, vi dicevo, l'ex ministro Scajola, la DIA di Reggio Calabria, Direzione Investigativa Antimafia, ha arrestato a Roma l'ex ministro Claudio Scajola, accusandolo di aver favorito la latitanza dell'ex parlamentare del PDL Amedeo Matacena, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo i PM, Scajola favorì il latitante cercando di fargli lasciare Dubai per andare invece a Beirut ed evitare così l'arresto dopo che aveva avuto la condanna definitiva Matacena a 5 anni per mafia. Ma secondo i magistrati, Scajola e gli altri destinatari di questi provvedimenti restrittivi farebbero parte in realtà di un sodalizio criminale, politico, imprenditoriale collegato all'Andrangheta. Così ti risulta, Monica Ceravolo? Sì, quello che si legge proprio nero su bianco sull'ordinanza di perquisizione che è stata firmata oggi è che esiste una rete di contatti internazionali e politici di altissimo livello, insomma un'associazione per delinquere segreta collegata all'Andrangheta, così scrive il giudice per le indagini preliminari. Questa rete di protezione non solo avrebbe protetto in qualche modo la latitanza di Matacena, ma avrebbe anche operato per occultare, nascondere e reintestare le proprietà dell'imprenditore per sottrarle al sequestro. Allora, visto che appunto ha poco tempo per l'appunto, Elisabetta Busuito, avvocata, lei, ho visto insieme al suo collega Giorgio Perroni, anche lui avvocato di Scajola, oggi avete fatto una dichiarazione, partita poi con le agenzie, in cui si legge: si precisa che Claudio Scajola è indagato per procurata in osservanza di pena ai sensi dell'articolo 390 del codice penale, non è pertanto indagato per associazione a delinquere semplice e o di stampo mafioso, come erroneamente riportato da alcuni organi di informazione. Cioè, ci spiega, esatto, in che senso? Esatto, confermo, perché il senso è esattamente quello letterale. L'ipotesi di reato contestata all'onorevole Scajola è esclusivamente quella di cui all'articolo 390, cioè la procurata in osservanza di pena. Non bisogna farsi fuorviare, visto che sentivo nero su bianco dal provvedimento di perquisizione, bisogna leggere, mi consta che sia a mani di alcuni giornali, l'ordinanza di custodia cautelare, nella quale è ben specificato qual è il reato unico appunto contestato all'onorevole Scajola. E qual è questo reato? La procurata in osservanza di pena all'articolo 390. Quindi, se vuole tradurre per chi magari è meno avvezzo a questioni giuridiche? E che cosa è la procurata in osservanza di pena, intende? È sostanzialmente un'ipotesi di reato che consiste nel fatto di aiutare qualcuno a sottrarsi all'esecuzione di una pena. Nel caso specifico il riferimento accusatorio è alla pena divenuta definitiva del Matacena per reato di, mi pare, associazione mafiosa. Comunque il rilievo non è l'aspetto mafioso, ma il fatto che ci sia un aiuto a sottrarsi all'esecuzione della pena per qualcuno condannato per mafia. Però poi, come si diceva, i magistrati dicono anche Scajola e gli altri destinatari dei provvedimenti restrittivi sarebbero anche parte di un sodalizio criminale, politico, imprenditoriale collegato all'Andrangheta. Le risulta? No, non mi risulta, perché nell'ipotesi di reato si fa riferimento al 390. Io ho letto l'ordinanza di custodia cautelare. Anche perché se facesse parte del sodalizio dovrebbe avere un'ipotesi di 416 o 416 bis, che non è, quindi. Quindi secondo lei come si evolverà nei prossimi giorni la posizione dell'ex ministro Scajola? Ci sono delle scansioni, diciamo, procedurali, nel senso che ora noi stiamo attendendo la fissazione dell'interrogatorio di garanzia da parte del GIP, e dopodiché dovremo valutare un'eventuale richiesta di riesame. Abbiamo alcuni giorni, abbiamo una situazione nella quale, come lei comprende, di fatto non sappiamo nulla di questa situazione, nel senso che abbiamo un'ordinanza di custodia cautelare di 200 pagine a fronte di vari faldoni di atti di indagine. Consideri che lo vede dal numero che caratterizza il procedimento penale, che è del 2009, quindi è un'indagine che sicuramente parte molto tempo fa. Non so nei confronti dell'onorevole Scajola, perché non ho idea, non conosco minimamente la vicenda, ma sicuramente anche già leggendo l'ordinanza di custodia cautelare si comprende che è un'indagine, anche solo nei suoi confronti, che va avanti da parecchio tempo. Quindi certamente ci saranno innumerevoli atti che noi dovremo esaminare. Non abbiamo la possibilità di interloquire in questo momento con l'onorevole Scajola, e quindi di fatto abbiamo una conoscenza praticamente nulla o quasi della vicenda. Conosciamo soltanto in qualche modo quello che è il punto di vista dei pubblici dei magistrati. Senta, quando lo vedrete Scajola, quindi lei e il suo collega come avvocati? E lo vedremo quando verrà fissato l'interrogatorio da parte del GIP. Non vi siete quindi parlati, non vi siete assolutamente parlati da che... Io l'ho potuto soltanto salutare oggi presso gli uffici della DIA, dove lui era stato portato inizialmente, ma ripeto, essendoci un divieto di interlocuzione col difensore, è stato semplicemente un saluto. Quindi non ha detto nient'altro a parte un saluto? No, quello che avete letto del nostro comunicato è sereno, aveva davanti la sua copia dell'ordinanza e si vedeva che ne aveva letta una parte, perché era diciamo così aperta una certa pagina, conoscendolo è una persona che ritiene, confida nella magistratura, e quindi ha voluto manifestare a me come avvocato, anche per ovviamente rappresentarlo alla famiglia, che lui era sereno e tranquillo di poter chiarire tutti i vari punti. Mi dica solo una cosa prima di salutarci, Elisabetta Busuito. Lei non vi aspettavate qualcosa di simile nell'aria dopo che Berlusconi aveva parlato di possibili dossier in arrivo, dopo che non era stato candidato per le europee? No, onestamente vi assicuro che quando stamattina prima l'avvocato Perroni ha ricevuto la telefonata da parte della DIA e poi mi ha chiamato per comunicarmi la notizia, siamo tutte e due rimasti assolutamente basiti, cioè non ci aspettavamo minimamente questa notizia, anche perché non avevamo alcuna idea della esistenza stessa di questo procedimento penale, di questa indagine, quindi proprio eravamo all'oscuro assolutamente di tutto, tant'è che siamo stati nominati questa mattina a fronte della misura di custodia cautelare. Anche per questo proprio non conosciamo niente della vicenda, se non, ripeto, il punto di vista dell'accusa riportato nell'ordinanza. Ci tengo però a dire che perché l'abbiamo già visto non mi ricordo in quale agenzia, perché oggi ne sono uscite tante, quindi adesso non so correlare, ma quel nostro comunicato di smentita nasceva dalla lettura di uno dei tanti comunicati o quant'altro che avevamo trovato su internet, di fare attenzione a non confondere le accuse che gli vengono mosse, nel senso che l'accusa è solo procurata in osservanza di pena, non ci sono ipotesi di associazione per delinquere, né semplice né di stampo mafioso, e basta leggersi l'ordinanza di custodia cautelare per comprenderlo. Grazie avvocata Busuito, grazie buon lavoro. Grazie. Monica Ceravolo, abbiamo ancora un minuto, perché non era previsto che riuscissimo a raggiungere l'avvocata. Se vuoi riassumere e chiudere anche questa per il momento, insomma. Ma sì, brevissimamente, diciamo, l'inchiesta che si è conclusa oggi con questo arresto parte da lontano, parte dai fondi neri della Lega Nord e incrocia i soldi dell''ndrangheta, il riciclaggio dei soldi e dell''ndrangheta. In questo contesto viene intercettata una conversazione tra Scaipa e la moglie di Amedeo Matacena, Chiara Rizzo. Da qui si sviluppa un nuovo filone di indagine della Procura di Reggio Calabria. Matacena, tanto per dirlo a chi non lo conoscesse, è un ex parlamentare del PDL, latitante dalla scorsa estate dopo la condanna a 5 anni di reclusione per concorso esterno, e si è riparato a Dubai, dove è stato rintracciato dall'Interpol. A questo punto rischia l'estradizione, sua moglie e Scaiola, durante le conversazioni intercettate, discutono di trasferirlo in un luogo più sicuro a Beirut, in Libano, dove testimoniano le indagini, possono contare anche su coperture locali garantite da Vincenzo Speziali, che vive lì ed è sposato con una parente dell'ex presidente libanese candidato, tra l'altro, Amin Gemayel. Qua c'è un poco di ironia, perché lì sappiamo che c'è anche dell'Utri, no? Come mai in Libano? Come mai vanno in Libano? Vanno in Libano perché non esiste lì, non esiste nel loro codice penale il reato di associazione mafiosa, quindi è difficilissimo che possano essere estradati. E perché la custodia cautelare, quella preventiva, prevede tempi molto brevi, massimo di un mese, dopodiché sono liberi. Ah, pensavo avesse attrattive paesaggistiche in Libano, così senso, no, quindi il motivo è un altro, insomma, va bene. Temo che non sia quello il motivo, il vero motivo, diciamo, è da Matacena dell'Utri, domani aspettiamo la sentenza di Cassazione per dell'Utri, è vero, domani c'è anche questa scadenza. Monica Ceravolo, ti ringrazio, buona continuazione. Grazie a voi, ciao Monica. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In pochi secondi ve le ricordo le notizie. Abbiamo appena sentito dell'arresto di Scaiola, che favorì la latitanza di Amedeo Matacena. I PM parlano di associazione segreta con l''ndrangheta. Abbiamo sentito l'avvocata che per ora smentisce, poi capiremo. Bufera sull'Expo, 7 arresti per appalti e tangenti. I PM dicono in Lombardia c'è una cupola, manette anche Primo Greganti, già coinvolto in Tangentopoli. Ucraina e separatisti confermano il referendum per domenica. Intanto si prepara il vertice dell'Unione Europea per le sanzioni per colpire le società russe. Poi dicevamo Michelle Obama che scende in campo per le liceali nigeriane. Ma adesso invece parliamo di Europa e lo spazio europeo. Ogni anno, il fine settimana più vicino alla data del 9 maggio, c'è lo Europe Day, il giorno dedicato all'Europa. Vede impegnate questa giornata le maggiori opere opera house europee, e domani quindi la giornata per aprire le porte del mondo della lirica a un pubblico sempre più vasto. European Opera Days quest'anno, alla loro 8ª edizione, si tengono dunque durante il fine settimana del 10 e 11 maggio per far conoscere a tutti la forma d'arte, che forse più delle altre può essere considerata come radice di una comune identità europea. Adriana Fracchi ha intervistato Barbara Minghetti, consigliera di opera europea e presidente del Teatro Sociale di Como. Europa 24 notte. L'European Pradesh è un'iniziativa nata in Europa da Opera Europa, che è un'associazione di teatri europei d'opera. È nata con l'idea di cercare di avvicinare un pubblico diverso per l'opera lirica. Quindi si è pensato di uscire dai teatri e andare nelle strade, nei centri commerciali, nelle stazioni, ovunque dove si possa incontrare le persone anche casualmente, per potergli far ascoltare dei momenti magari di opera e farli avvicinare a un genere che magari spesso è considerato lontano, per poi rinvitarli nei propri teatri. Oppure l'idea è quella di far vedere il teatro con gli occhi diversi, quindi l'apertura del dietro le quinte, di eventi gratuiti particolari, tutto ciò nato come promozione dell'opera. In tutta Europa si articola con iniziative incredibili, nel senso che appunto in 8 anni più di 100 teatri aderiscono a questa iniziativa, e dalla Francia alla Germania alla Spagna le iniziative che vengono fatte in queste 2 giornate sono veramente incredibili. Quest'anno la tematica è Journey to Opera, noi l'abbiamo tradotto Musica in viaggio, e partiva dall'idea che l'opera è un viaggio comunque, e comunque ci piaceva anche l'idea che ci fossero i luoghi di viaggio con l'opera. Quindi noi abbiamo fatto una versione italiana di questa iniziativa, che avrà un punto molto importante a Como, perché peraltro il Teatro Sociale di Como Adriatico sono i capofila per Opera Europa, e quindi ci siamo inventati una serie di iniziative nei luoghi di viaggio, che era un po' l'idea appunto del passaggio, ma anche del viaggiatore, della curiosità e dell'incontro. In tutta Europa fanno cose molto anche importanti, nel senso che sono delle giornate che vengono prese molto in considerazione dai direttori artistici, quindi vengono proprio studiati degli eventi ad hoc. Quante sono le nazioni europee coinvolte? Quanti teatri? Insomma, ci dia qualche numero. Allora, i teatri europei sono 100, in Italia saremo circa 6 teatri, e invece in tutta Europa appunto 100, con non so quante migliaia di eventi in 2 giornate. Tutto il calendario e tutti gli eventi si trova nel sito di operaeuropa.org, dove si può proprio anche geograficamente, con una cartina geografica, individuare le varie città. Anche in Italia abbiamo coinvolto, devo dire qua con un piccolo dispiacere, pochi teatri, perché purtroppo ancora forse non c'è in Italia questa così filosofia della condivisione, della partecipazione, di coinvolgere la comunità in una maniera diversa. Quindi hanno partecipato Iesi, Modena, Torino, Torre del Lago, Pavia, Treviso e Como. Ma come mai nel paese dove è nata l'opera? Bella domanda. Non lo so, per me è un po' un dispiacere, se devo essere sincera, perché noi crediamo molto, Teatro Sociale di Como Adriatico, all'opera un po' destrutturata, quindi all'idea appunto di avvicinare la gente in un supermercato con una cantante che col carrello canta un'aria e anche fa promozione poi delle produzioni che vengono fatte in teatro, perché poi non dimentichiamoci che il finale ultimo è comunque portare la gente nei teatri a vedere la nostra stagione, questo è il finale comunque. Però l'idea è quella di avvicinarli in maniera diversa rispetto a quello che sempre sta. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E lasciamo l'Europa, incontriamo il mondo al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove per noi è Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao a tutti. Alessandra, senti, mi pare che il ministro della cultura Franceschini abbia inveito contro la TV perché penalizza la lettura. Come no? È stato un attacco, guarda, veramente duro. È aggressivo. L'ha fatto in maniera netta, precisa. Oggi l'abbiamo fatto anche ascoltare le sue parole a Radio 24. Lui ha detto sostanzialmente che la televisione ha danneggiato la lettura e quindi a questo punto deve risarcire. Ha citato Rai, Mediaset, Sky. Come deve risarcire? Facendo pubblicità a Progresso o facendo trasmissioni di libri, ha precisato, non in orari assurdi a 1 di notte. Dopo l'abbiamo anche risentito, perché naturalmente ci sono state le reazioni di Rai, di Sky, che dice no, noi ci siamo sempre comunque occupati di cultura, e lui ha detto io non volevo offendere nessuno, la realtà dei fatti è che la televisione si occupa poco di libri e dovrebbe farlo. L'importante è che non se la sia presa con la radio, no? Ecco, intanto se l'è presa con la televisione. No, ha parlato anche di radio. Anche realtà, di radio, porca miseria. Gliel'abbiamo chiesto, ha detto che la radio va un po' meglio, ma anche qui bisogna lavorare parecchio. E poi tu ti occupi di libri in radio, quindi sei, diciamo, al di sopra di qualsiasi sospetto. Il Papa mi sembra che sia un protagonista in qualche modo. Papa è protagonista perché quest'anno il paese è straniero, ospite e città del Vaticano, e si parla molto del fenomeno Papa Bergoglio proprio dal punto di vista editoriale. Oggi ho scoperto per esempio che di libri del Papa e sul Papa nel giro di un anno, da quando è stato eletto, ne sono stati scritti solo in Italia, solo in italiano, 246 o 247. E insomma, un numero, come dire, notevole, direi. Senti Alessandra, so che poi ci sarai anche nei prossimi giorni, no, al Salone del Libro, quindi ci collegheremo per sapere quali sono gli eventi. Adesso senti che sale la sigla e ci dovremmo salutare. Volevi aggiungere una cosa in due secondi proprio? In due secondi devo dire che qui al Salone del Libro, insomma, è sempre una gioia vedere la gente che partecipa e che legge, si spera, e che legge. Grazie Alessandra Tedesco, ci sentiamo tra pochi istanti.